Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te, perché tu sei mio figlio, conto su di te. Non pretendo e non voglio che diventi un re, né un campione sul miglio, ma soltanto che tu faccia sempre del tuo meglio, conto su di te. Perché porti rispetto a tua madre e a me, come all'ultimo insetto che ha creato Dio. E se io mi addormento, prendi il posto mio. Per tirare il carretto, conto su di te. Non scansare la lotta, conto su di te. Perché affronti la roccia che una vita è, e lo faccia meglio di me. Conto su di te, perché studi e lavori oltre che per te, perché il mondo migliori se avrai di più. Non nasconder tesori, pensa che c'è un Dio nei tuoi fratelli chiusi fuori. Conto su di te per fermare il cemento sulla prateria, dove gli scappamenti sputano follia e mortali incidenti. Conto su di te per salvare una trota soffocata da una plastica idiota. Conto su di te perché vinca la vita e la bomba ammuffisca laddove sta. Conto su di te che hai la vita davanti se assomigli a me, anche nei sentimenti forse soffrirai, navigando di fronte e saranno guai, difendere un'idea, un amante, ma io sento che l'importante nel cuore conta su di me. E sbagliare ed amare conta su di me, come io conto su di te.